sensibile, sottile, leggermente dolcemente. Incomincia, incomincia a sussurrar. Piano, piano, terra, terra, sottovoce, sibilando, va scorrendo, va scorrendo, va ronzando, va ronzando, nelle orecchie della gente. Si introduce destramente, e le teste di cervelle, e le teste di cervelle, fa stordire, fa stordire, fa stordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuori uscendo, lo schiamazza va crescendo, rende forza poco a poco, vola già di loco in loco, sempre tona la tempesta che nel sen della foresta va fischiando, brontolando e di farla roncerar. Alla fin traboca scoppia, si propaga, si raddoppia e produce l'esplosione. Come un colpo di cannone, come un colpo di cannone. Un parrale, un tumulto generale che fa dare rimbambarsi, che fa dare rimbambar. Un tremoto, un parrale, un tumulto generale che fa dare rimbambarsi, che fa dare rimbambar. Il meschino calunniato ha vilito calpestato. Sotto il pubblico flagello per gran sorte a crepar. Il meschino calunniato ha vilito calpestato sotto il pubblico la cielo per gran sorte va a crepar. Sotto il pubblico placello per gran sorte va a crepar. Sotto il pubblico placello per gran sorte va a crepar. Si va a crepar, si va a crepar, si va a crepar.